Cose del Settecento. I re ereditari offuscavansi in una nube d'incensi finché il bel mondo non se n'accorgesse e li ghigliottinasse. Veri re divenivano i filosofisti, che mossa una lepida guerra alle credenze religiose, alle idee metafisiche, alle tradizioni del genere umano, sentenziandole di superstizioni, astruserie e pregiudizi, non accettavano per vero se non quello di che si capacita il senso più comune. Cesare Cantù.